Radio Doc. 29 milioni di italiani se ne vanno in cerca di fortuna. 29 milioni. Accade tra il 1875 e il 1950. E sono così tanti che di loro si perde la memoria. Sono un po' come le vittime della violenza. Se è uno a morire ce ne ricordiamo, se sono migliaia li dimentichiamo. Io sono Gigi Donelli e oggi vi racconto da Genova ad Ellis Island, il viaggio per mare ai tempi della migrazione italiana. Una grande mostra sull'emigrazione raccontata in radio e visitabile al Galata Museo del Mare di Genova. Non si tratta solo di vedere, bisogna ascoltare, guardare, conoscere e unirsi, biglietto e documenti alla mano, al destino di chi un secolo fa il viaggio l'ha fatto davvero. La mostra ci riporta proprio dal piano della moltitudine indistinta a quello delle persone, a Elena e a Ernesta, a Mario, a Giovanni, a Francesco. In questo viaggio noi abbiamo una buona guida. Pierangelo Campodonico è direttore del Museo del Mare e curatore di questa mostra. 30 giorni di nave a vapore, che nell'America noi siamo arrivati. Praticamente il visitatore, salendo le scale, arriva nel piano di tutto dedicato alla mostra relativa all'emigrazione e al viaggio da Genova a Ellis Island, e il primo gesto che fa è quello di ritirare il suo passaporto, seconda che sia un uomo o una donna, perché questo gli permetterà di essere associato, diciamo così, alla storia di un emigrante, che sia un emigrante famoso, un emigrante sconosciuto, che poi abbia trovato successo, che poi sia tornato indietro, che addirittura sia morto. Questo lui lo scoprirà progressivamente. Ritirato il suo passaporto, si avvia in questa passerella che fondamentalmente vorrebbe rappresentare questo passaggio tra il vecchio mondo e il nuovo, e questo ci richiama il canopy, che era la tettoia di Ellis Island, che era il primo luogo americano che loro toccavano una volta scesi dalla nave. Avanti, avanti, non vi fermate, non spingete, non spingete, il posto c'è per tutti. Mostrate il biglietto. Nel biglietto c'è il letto che vi è stato assegnato. Chi non sa leggere, lo mostri a me, che vi dirò qual è il posto. Dividetevi. Gli uomini stanno di qua, nel dormitorio maschile. Le donne e tutti i bambini, fino a 14 anni, stanno di là. Oltre il corridoio c'è il dormitorio femminile. Sì, uomini di qua, donne di là. Non mi interessa che siete la stessa famiglia. Gli uomini di qua, donne, bambini di là. Sistemate i vostri bagagli nella bagagliera, non c'è posto nel dormitorio per le casse. Avanti, avanti, non vi fermate, non spingete, non spingete, il posto c'è per tutti. Quando vi siete sistemati, salite al ponte superiore. Alla porta della cucina ritirate le gamelle e le posate del rancio. Ogni 6 emigranti scegliete un capo rancio, è lui che ritira il rancio in cucina e lo distribuisce. Passeggeri ed emigranti all'atto dell'imbarco hanno obbligo di consegnare al comandante tutte le armi bianche e da fuoco che avessero con loro. Se non consegnate le armi, sarete arrestati e denunciati. Consegnate le armi. In questa storia parte praticamente dal proprio paese per arrivare al porto di Genova. Quindi quello che lei vede sono i dipinti sulla Genova dell'Ottocento, ma anche le fotografie degli emigranti all'interno di questa Genova dell'Ottocento. E in particolare troviamo le navi che vennero costruite a Genova per trasportare migranti. E questo è uno degli aspetti che noi vogliamo sottolineare all'interno della mostra, cioè il fatto che quella grande flotta, quella tradizione di costruzione navale, che poi darà vita al Rex, a tutta una flotta di transatlantici, in realtà ha delle modeste origini, che sono quelle di realizzare dei trasporti per le migrazioni. E buona parte di quello che era un po' il circuito degli affari della Genova dell'epoca verteva proprio sul traffico dell'immigrazione. Allora, oltre le navi, oltre gli armatori, c'era anche tutto un tessuto che in particolare era ospitato nel centro storico, che viveva sulle migranti. barca. L'emigrante che arrivava molti giorni prima della partenza della sua nave ed era considerato una specie di pollo da spennare, nel senso di dargli da mangiare a prezzi alti, di dargli da dormire a prezzi alti e così via. Tanto che molte di queste persone, a un certo punto esaurite le loro risorse economiche, praticamente venivano e uscivano dagli alberghi, non avevano più soldi e si mettevano a dormire all'addiaccio. In particolare, ecco, qui c'è un lampione sì, a gas che rimanda a un grande quadro, che è il quadro degli emigranti che noi vediamo adesso ed è inserito appunto nella sala dell'attesa, ed è una scena da una parte coloratissima e dall'altra parte straziante, perché racconta di tutto un popolo in fuga, praticamente in una fuga per un avvenire economico diverso, però anche delle condizioni estremamente drammatiche. E nello stesso tempo Genova si lamenta, dopo aver lucrato su queste persone, si lamenta perché stanno all'aperto, sono sporche, puzzano, vengono dalla campagna, vengono dal sud profondo, come prima erano stati preceduti da altri che venivano dal Piemonte o dal nord-est. Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in America, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti con biglietto rilasciato in Italia da uffici autorizzati. Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perché accettando andrebbero incontro a gravi inconvenienti, spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco. Prima di imbarcarsi loro dovevano far vedere alla dogana i loro bagagli, ed è l'occasione giusta per noi per mostrare una serie di documenti. Documenti come per esempio le lettere che avevano costruito il sentiero emigratorio, le lettere con i quali loro erano stati chiamati, oppure i passaporti, di cui c'era un tipo molto particolare che si chiamava passaporto rosso e che era obbligatorio, diciamo così, per andare all'estero, ed era un passaporto di cui si pagava una tassa abbastanza consistente, tant'è che molti, per non prendere il passaporto rosso, scappavano praticamente dall'Italia, passavano la frontiera attraverso i varchi nascosti come quello di Ventimiglia. Erano clandestini perché non avevano i soldi per comprarsi il passaporto. E nell'America che siamo arrivati, abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul piano terreno e come Ecco, quanti furono i passaggi da Genova delle persone italiane e italiane che cercavano una vita migliore all'estero? Noi precisamente non lo sappiamo, perché ci sono delle situazioni in cui i passeggeri, gli emigranti erano registrati, ed è la situazione per esempio di Ellis Island, ma molto spesso, soprattutto a Genova, gli emigranti, le persone che partivano, non vennero registrati. Quello che noi sappiamo è che in totale tra il 1850 e il 1950 partirono dall'Italia qualcosa come 29 milioni di persone. Di questi 10 milioni tornarono indietro o andarono e venirono con vere e proprie carriere, chiamiamole così, transfrontaliere ma transoceaniche. Il caso più tipico è quello di determinati contadini del Veneto, del Trentino e del Piemonte che facevano le campagne del grano a casa propria e poi sfruttando la differenza dell'emisfero, quindi di stagione, si imbarcavano nell'autunno italiano per sbarcare nella primavera in Argentina, fare il grano e poi rimbarcarsi per tornare a casa loro. E questa è la prima parte dell'emigrazione, quella attorno agli anni dell'Unità d'Italia. Dopodiché, con l'Unità d'Italia e il peggioramento delle condizioni del sud, si apre come una diga che si rompesse e soprattutto dal sud più profondo parte una vera seconda emigrazione. Mentre la prima era soprattutto maschile, professionalizzata, contadini, manovali, esperti, eccetera, la seconda è una emigrazione indifferenziata. E lassa casa mia, lassù paesi, e me ne vai in America a zappare, e fa fortuna parte stai un mese, senza vita più terra, cielo e mare. E lassa casa mia, l'Italia beggia, pigli lontana assai in terra straniera, e sottannato cielo e una stella, trasporto i guaglioni e la mogliera. E là comincia la malinconia, pensando alla campagna di segno nato, e a chi era vecchia santi mamma mia, e a tutti cose care tuo passato. E lassa casa mia l'Italia beggia, pigli lontana assai in terra straniera, e sottannato cielo e una stella, trasporto i guaglioni e la mogliera. Cara mamma, ho ricevuto la tua lettera per acconto di quella ragazza. Che tu dici? Ma se sono le ragazze qui in America che vanno a cercarsi il marito. Né perché questa ragazza è 4 anni che la conosco e ha solo 17 anni adesso. E 2 anni passati ci ho detto che l'avrei sposata quando era un po' più vecchia. E non se l'è mai scordato di quanto ci ho detto. Io l'ho cercata, non lei me. Quando l'ho cercata aveva 13 anni soltanto. Io no, ti volevo scriverti, nemmeno che mi volevo maritarsi. Ma lei mi ha pregato di scriverti a te. Te pensi che sono andato nei pastizzi? Se voglio la sposo, e se non voglio non la sposo. E qui c'è tutto. E in quanto ai denari, lei non ha avuto 5 centesimi da me. Nemmeno cerca farmi spendere damari. E se li spendo i damari, li spendo con altre donne. È per questo che voglio smettere prima che prendo un qualche regalo. America! La chiamano l'America sorella, tutti la chiamano.